Disco Wants, Disco Wants, Disco, Disco, Disco. Signore e signori, ora in ascolto, Mozzo DJ, Disco Wants. Ora in ascolto, Disco Wants. Ora in ascolto, Mozzo DJ, Disco Wants. Wants. Disco Wants, ora in ascolto. Ora in ascolto. Mucho, cho, cho. Disco Wants. Disco, to, to. Mucho, cho. Disco, to, to. Signore e signori, ora in ascolto. Mucho DJ. Disco Wants.